E allora, intanto benvenuti a tutti. Anche io facevo parte del collettivo femminista e volevo parlare solamente di una cosa, che non è un fatto politico, non è, è l'essenza, secondo me, vera del collettivo femminista di Cinisi. I rapporti che noi riuscivamo a costruire fra di noi e assieme anche ai compagni, ed era la differenza principale fra il collettivo femminista di Cinisi e i collettivi femministi a Palermo. Oggi per me è un giorno molto importante perché appunto voglio ricordare anch'io Fanny non come una compagna, ma come una parte di me. E questo era il rapporto che avevamo tutti, e questo è stato quello che ci ha dato la forza di andare avanti e di portare avanti le lotte che portavamo avanti. Il collettivo femminista per noi non è stato uno strumento di lotta, ma è stato principalmente uno strumento di conoscenza della nostra persona. Noi siamo diventate quello che siamo attraverso le nostre riunioni, le nostre discussioni, che sono iniziate come conoscenza di individui, non come lotte femministe. E questa forse è stata la nostra forza più grande. Sì, musica e cultura. Era il momento in cui io mi sono legata, diciamo, un poco con Giovanni. Era una ragazza molto semplice, e frequentando Giovanni sono entrata a far parte di Musica e Cultura. Musica e Cultura è stato un momento veramente importante per Cinisi, un momento di aggregazione a livello giovanile, che si veniva a coprire un vuoto culturale in un paese come Cinisi, dove non esisteva nulla. E quindi, come diceva Francesca, all'interno di Musica e Cultura era nato anche il collettivo femminista. E io vorrei ricordare un po' tutto il gruppo, oltre a Francesca, Fanny che è stata nominata, c'era anche Fanny Jacopelli, Graziella Jacopelli, Margherita, Concetta, Maria. Mi dispiace che qua alcune non le vedo, altre sì. Anche questo è stato un momento molto bello, affrontare tematiche di noi ragazze di allora, problemi a livello del rapporto tra i nostri compagni, il rapporto con le tematiche di allora, e anche quello sull'aborto, perché come ricordava Francesca, anche noi abbiamo fatto un poco di campagna a favore dell'aborto. E poi non posso non ricordare una grande femminista che ha condiviso con me più di 30 anni della sua storia, cioè mamma Felicia, perché anche a proposito dell'aborto devo dire che molti ricorderanno che Musica e Cultura si trovava, chi è stato già a Casa Memoria, Musica e Cultura si trovava nella traversa prima di arrivare a Casa Memoria, cioè quindi era a pochissimi passi da casa nostra. Quindi casa di Peppino era un punto di riferimento e spesso le ragazze ci si trovava là con mamma Felicia, e lei era molto aperta a confrontarsi con i problemi dei giovani, e anche sul problema dell'aborto lei era molto aperta su questo ed era a favore dell'aborto. Acquistano sempre più importanza e significato e mantengono la memoria. Questa memoria di cui, per esempio, io in particolare dovrei parlerò poco del problema dell'interruzione della gravidanza, volgarmente chiamato aborto. Aborto clandestino, aborto libero, aborto gratuito, che in pratica erano le parole che insomma d'ordine che giravano prima ancora che ci fosse la legge la 194, appunto, che è stata siglata il 15 di maggio del 1978, quindi pochi giorni dopo l'assassinio di Giuseppe Impastato, di Peppino Impastato. Una strana coincidenza, una delle tante coincidenze. E questa legge, prima di arrivare, diciamo, appunto al 1978, era passata attraverso varie, intanto a partire dal 1971, che fu nel 20 di novembre del 1971, ci fu una prima manifestazione, quindi nel lontano 71, interregionale per l'abrogazione della legge proibizionista dell'aborto. era stata portata avanti dal movimento di liberazione della donna. Ed era appunto, questa fu la prima forma di uscita del movimento di liberazione contro questa legge che penalizzava appunto chi veniva trovato a compiere questo, sia chi, la donna che abortiva, che chi procurava l'aborto. Si inizia la discussione alla Camera nel 76, quindi 5 anni di lotte, manifestazioni, cortei, volantini, collettivi, incontri, in continuazione discussioni, per fare capire che le donne non giocavano con l'aborto, che per la donna era una tragedia l'aborto, che non era che noi eravamo tutte delle puttane, come si diceva, che andavano in giro facendo figli, in pratica, cioè avendo rapporti sessuali al di fuori del regolare matrimonio sacrosanto, sancito in genere dalla Chiesa, e andavano facendo queste cose, e poi come facevano per risolvere il problema? Andavano ad abortire. Quindi l'idea era questa. Noi volevamo far capire che non eravamo questo, che non eravamo delle puttane, ma eravamo delle persone che avevano dei rapporti sessuali anche all'interno del matrimonio e che comunque avrebbero anche desiderato eventualmente liberarsi da questa schiavitù del matrimonio e attuare una forma di liberazione anche sessuale, che significava avere anche dei rapporti prima del matrimonio, al di fuori del matrimonio, senza per questo sentirci delle persone per male. Naturalmente, ovviamente, in Italia, come si può ben pensare, con una Chiesa per quello che è, il clero per quello che è, la concezione cattolica per quella che era, difficilissimo fare passare un modo diverso di guardare la donna, che non era la donna prevista, diciamo, dalla Santa Chiesa. E quindi la lotta era forte, era dura, perché all'interno degli stessi gruppi di donne che volevano liberarsi da questo terrore dell'aborto, che volevano delle forme che impedissero di arrivare a questa soluzione finale, cioè anticoncezionali, per esempio, cioè l'uso del preservativo, per altro esempio, perché il rapporto sessuale si fa in due, quindi se alla fine c'era un figlio, il figlio, se c'era, non era solo della donna, era della donna e dell'uomo, e non era solo che la donna doveva preoccuparsi, lei in prima persona, di evitare la cosa, dovevano essere in due a evitare la cosa, ma la Chiesa di preservativi non voleva neanche sentire parlare. E quindi naturalmente, se la donna è per amore, per il solito grande amore che proviamo per i nostri compagni, e si voleva sacrificare, lei doveva trovare le soluzioni, e sul corpo della donna si sono cercate le soluzioni per evitare una gravidanza indesiderata. Penso all'inframma, penso anche alla stessa pillola anticoncezionale, che le prime erano terribili, uno diventava grassa grassa, si sformava tutta, creava dei problemi. Quindi siamo state delle cavie pure in tutto questo, in questa forma di perbenismo che è solamente di facciata, sostenuta appunto principalmente dalla Chiesa, ma non solo, perché all'epoca di cui stiamo parlando c'era la Democrazia Cristiana, la grande Democrazia Cristiana, che praticamente sosteneva tutto il resto, e che naturalmente allora di nuovo e di bello, di positivo c'era in queste strutture. Anche rispetto alla legge, il dibattito io sempre con Daniela mi accapio un po' su questa cosa, la depenalizzazione. È vero, la lotta era per la depenalizzazione, per lasciare completamente libere le donne. Nell'esperienza, nella pratica quotidiana, io devo dire che sin dall'inizio la volontà delle donne, l'autodeterminazione delle donne, in qualche modo era, rispetto alla scelta di fare un'interruzione di gravidanza, era rispettata, nel senso che l'ultima parola spettava comunque alla donna. E la presenza di una legge che si ingabbiava in una cornice, diciamo, statale, questo momento così privato, così intimo e così drammatico molte volte, ingabbiava la donna, però nello stesso tempo ha garantito alle donne che non avevano la possibilità di fare le interruzioni di gravidanza, di fare gli aborti in situazioni di sicurezza per la salute, di farli. Questo è l'argomento che a me fa passare poi qualunque perplessità, perché dico, io le ho viste, ne ho viste tante. Io quando ero in ospedale facevo le interruzioni di gravidanza e c'erano delle garanzie su questo per quello che riguarda la prescrizione della contraccezione, però comunque si discuteva di questo e piano piano devo dire che anche in paesi o in quartieri dove sembrava impossibile, invece la contraccezione si è cominciata ad utilizzare ed efficacemente. Chi ce lo dice questo? Ce lo dicono esattamente ogni anno puntualmente le relazioni che per legge, per la legge 194, il ministro è tenuto a presentare in Parlamento. Ci dicono esattamente questo, che la legge ha funzionato, che è riuscita a ridurre il numero di aborti. Io non ho i numeri più recenti perché non ho fatto in tempo a scaricarli, dico comunque è possibile accedervi in maniera molto semplice su internet, perché ogni anno vengono non solo pubblicati, presentati in Parlamento, quindi negli atti parlamentari si trova la relazione annuale. Quindi si è riusciti a ridurre il numero, a far abortire le donne in sicurezza per la salute, a ridurre il numero degli aborti, lasciamo perdere in questo momento il fenomeno delle immigrate, che diciamo è un fenomeno in crescita, ma è legato anche al fatto che le immigrate non sono esposte a tutta una serie di servizi di prevenzione che invece valgono per le cittadine italiane. Quindi ha ridotto le interruzioni di gravidanza, le ha rese sicure e ha incrementato, questa riduzione è strettamente legata alla maggiore diffusione dei metodi contraccettivi efficaci. Allora, io ricordo, e qui chiudo la parte che riguarda il passato, ricordo che, allora, lo dico perché è una cosa che dico spesso al collettivo delle male femmine. Allora, la legge immediatamente non fu applicata. Io mi hanno raccontato delle colleghe di Enna che i primi anni lì all'ospedale non si riusciva a far fare l'interruzione di gravidanza, d'aborto non si riusciva a fare, che però c'erano i gruppi di donne che accompagnavano le altre donne e costringevano, facevano una iniziativa, facevano pressione sull'ospedale finché poi anche all'ospedale di Enna, per esempio, si cominciò ad applicare una legge dello Stato, perché di questo si trattava. Quindi erano sacrosante proteste. E io ero colpita da questo sostegno di donne alle donne e penso... E penso che oggi, e qui c'è, diciamo, l'aggancio col presente, penso che oggi probabilmente sia necessario ricominciare a fare questo, ricominciare a fare applicare la legge per come va applicata. Perché, e questo, in questo, con il collettivo delle male femmine, io dico sempre, dobbiamo riorganizzare questa cosa, perché laddove esistono le liste d'attesa, l'impossibilità a fare l'intervento per cui la donna a volte, o la ragazza peggio ancora, è costretta ad andare fuori Palermo perché a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, siccome c'è l'80% di obiettori, non è possibile, il medico dovrà pur mettersi quel poveraccio in ferie, no? E si blocca tutta l'attività che riguarda l'interruzione di gravidanza. E allora, io credo che siamo arrivati al presente e quindi ne parliamo. Voglio fare una considerazione di natura generale sulla sanità, sul fatto che la sanità oggi ha fallito in maniera drammatica quella universalità del diritto alla salute che aveva connotato la progettazione del sistema sanitario nazionale. Ha fallito è perché l'indicatore più importante è che non si fa la prevenzione. La prevenzione non si fa più, perché la prevenzione è un vuoto a perdere. La prevenzione tu la fai, non sai che sicuramente ti farà risparmiare, ma non sai quando. La prevenzione non è fatturato. E siccome oggi l'unica cosa che interessa i manager aziendali è il fatturato, dei consultori, della prevenzione più in generale, non gliene frega assolutamente nulla, anzi è scomoda. E questo chiaramente poi ha delle ricadute sui servizi territoriali, che sono quelli che dovrebbero fare la prevenzione, delle ricadute pesantissime. E la prevenzione, tra l'altro, aveva una funzione, purtroppo ne parlo al passato, una funzione importante. Facciamo un esempio al femminile, che è lo screening in azione sull'acquisizione di informazioni, sulla consapevolezza, per esigere alcune cose, almeno quelle essenziali. Il disempowerment, noi diciamo in termine tecnico, cioè non c'è più la capacità di promuovere la propria salute. E in questo, dicevo, sulla legge 194, sul fatto che negli ospedali l'aborto non si fa perché c'è questa situazione folle dell'obiezione, ora ne parlerò brevemente, se ci fossero, penso, dei gruppi di donne, anche di uomini, sotto gli ospedali a manifestare e a costringere, a prendere atto di una necessità, di una cosa che tra l'altro è una legge disapplicata, allora probabilmente potremmo riaprire una prospettiva di esigibilità di diritti. L'obiezione è cresciuta in maniera spaventosa, ed è cresciuta sulla malafede e sulla cattiva interpretazione anche della stessa legge. Cioè si è consolidato, per esempio, sulla certificazione. Allora, la certificazione, in realtà, la legge, io vi leggo il passaggio. Tu ce l'hai? No, ce l'ho fatto. Ecco. Voi dovete sapere che quando si fanno le interruzioni di gravidanza, il medico è tenuto a registrare l'intervento in un modello ISTAT, che serve poi viene convogliato alle regioni, e le regioni convogliano lo Stato. Allora, in questo modello ISTAT, nei primi anni, non c'era scritto certificazione, perché sì, c'era la certificazione, allora, niente, sì, è stato fatto in anestesia locale, ci sono una serie di voci che servono poi a costruire la relazione del ministro. Allora, nei primi anni c'era il documento, non si chiamava certificazione, perché la certificazione in realtà riguardava solo la procedura d'urgenza. Procedura d'urgenza significa che io vado in consultorio, vado in ospedale, vado dal mio medico di fiducia e il medico di fiducia certifica l'urgenza dell'aborto. E ho diritto immediatamente, senza riflettere una settimana, ho diritto immediatamente. Per questo è necessario che il medico certifichi l'urgenza, perché l'urgenza non la può certificare la donna. Cioè io certifico che se quella donna sta ad aspettare una settimana, due mesi, magari si butta dal balcone. No, io certifico che questa cosa è urgente. E lì ha un senso parlare di certificazione. Mentre la legge ci dice, parla dell'urgenza e del certificato attestante d'urgenza, e ci dice poi, se non viene riscontrato il caso di urgenza, il medico, il consultorio, eccetera, eccetera, le rilascia copia di un documento firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per 7 giorni, eccetera, eccetera, trascorsi i quali. Allora, questo documento attestante perché viene controfirmato dalla donna? Perché il medico prende atto della volontà della donna, dell'autodeterminazione della donna di interrompere la gravidanza, e siccome non c'è l'urgenza la invita pure a riflettere per 7 giorni. Tanto, dico, prima di 7 giorni non si arriva a fare un'interruzione di gravidanza. Ecco, negli anni i modelli ISTAT sono stati cambiati e non c'è più questa parola documento, c'è certificazione, come se tutte le interruzioni dovessero essere certificate dal medico. Allora, questi insieme ad altri, la faccio lunga, poi se ci sono domande, questo insieme ad altri modi di trasformare, di interpretare, di introdurre in maniera velenosa, in maniera consapevole, una cultura che riprenda a considerare la donna colpevole se fa l'aborto, colpevole se vive serenamente la sua sessualità. Ecco, questo modo così subdolo di modificare la cultura e di far sì che poi le cose si dimentichino. Per questo dico, io penso che sia importante che noi continuiamo a raccontare ognuno dei nostri punti di vista, quello che è stato e quello che è oggi. Ecco, io penso che questa sia la cosa più brutta che sta accadendo, e quindi ritengo che bisogna conoscere, approfondire e diffondere quanto più possibile informazioni nella maniera corretta. Grazie. Per quanto riguarda la Sicilia, i dati del 2003 sono che i ginecologi obiettori sono il 44%, gli anestesisti obiettori sono il 43,2%, il personale non medico anestesista è il 41,1%. Nel 2007 in Sicilia i ginecologi obiettori sono l'84,2%, gli anestesisti il 76,4% e il personale non medico l'84,3%. Per quanto riguarda la Sicilia, i dati del 2003 sono che i ginecologi obiettori sono il 44%, gli anestesisti obiettori sono il 43,2%, il personale non medico anestesista è il 41,1%. Nel 2007 in Sicilia i ginecologi obiettori sono l'84,2%, gli anestesisti il 76,4% e il personale non medico l'84,3%. Partecipate che si sono tenute a livello nazionale nell'arco di quest'ultimo anno, è stata adottata in tutta Italia e particolarmente nella città di Palermo. Per cui se avete notizie o qualcosa da dirci rispetto a strutture inadempienti, potete anche dirlo a noi o comunque mandarci un'email, registrarsi sul portale di Compact, eccetera. Abbiamo fatto partire pertanto un'inchiesta a Palermo, proprio che riguardi questo tipo di vivere la nostra esperienza e le nostre esigenze. Non vogliamo relegarci esclusivamente a parlare di sessualità e di aborto. Quello che a noi interessa è vivere noi stesse, vivere la nostra sessualità e i nostri desideri. Significa anche riappropriarci della dimensione di un immaginario che è esclusivamente nostro, rispetto non a dei ruoli che ci vengono appioppati